Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Voglio fare soltanto due considerazioni. Sperare che questa morte così orribile di Sara non sia inutile, dicendo due cose. La prima, l'invito sincero alle ragazze a confidarsi, a denunciare, a parlare con i loro amici, con le amiche, con i familiari, a non tenere nascosti comportamenti, condotte persecutorie, di minacce, perché non si può restare soli di fronte alla violenza di chi afferma di volerti bene e in realtà così non è. La seconda, un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte. Avrei voluto iniziare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, soprattutto oggi con una nuova settimana, con qualcosa di allegro, di ironico, magari di paradossale. Anche questo purtroppo è paradossale, pure banale, quasi quotidiano. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché è successo di nuovo l'ennesimo nuovo femminicidio, tanto per mantenere alta la media settimanale, mensile, annuale qui in Italia, poiché tanti uomini non sono diversi da quelli che sfregiano, che uccidono le donne che ritengono di loro proprietà in Bangladesh o in Afghanistan, anche uomini dell'ISIS. I talebani ce l'abbiamo in casa. Quello che avete sentito, quella che avete sentito è la procuratrice aggiunta di Roma, Maria Monteleone, che dopo l'ennesimo femminicidio, la ragazza di 22 anni che è stata bruciata viva a Roma dal suo ex fidanzato, e appunto spiega, lancia questo appello alle ragazze a denunciare, anche se tante denunciano e poi finisce prima, insomma questo è il primo passo, quello di denunciare, e poi anche a non girarsi dall'altra parte, perché in questo caso pare che due automobilisti a cui le aveva chiesto disperatamente aiuto sono andati via come se nulla fosse, e come si voltano naturalmente anche dall'altra parte ostinatamente i negazionisti, cioè quelli che ostinatamente continuano a negare che esista un reato specifico di genere degli uomini contro le donne che si chiama femminicidio. Di questo parleremo in modo ampio e anche intenso più tardi qui a Effetto Notte, quindi non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, perché poi le notizie sono tante, tanti gli argomenti, ma questo in particolare è assolutamente doveroso. Oggi, fra l'altro, non solo perché succede ogni 2-3 giorni, ma c'è stato anche un omicidio-suicidio poi nel milanese, una coppia di quarantenni, e quindi come vedete la media è sempre altissima purtroppo. E quello che vi chiedo questa sera è, per esempio, se avete voglia di commentare, cosa succederebbe se invece succedesse in Italia che ogni 2-3 giorni fosse una donna a uccidere un uomo perché è stata lasciata da lui? Che cosa succederebbe secondo voi in Italia? 349-238-6666, il numero come sempre per i vostri messaggi, che siano WhatsApp o SMS, oppure potete scrivere come sempre comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Adesso, come sempre, tanto per cominciare, la sintesi della giornata. Il femminicidio della Magliana, indagato per omicidio volontario ma anche per stalking, l'ex fidanzato di Sara Pietrantonio, la ragazza 22enne bruciata viva perché lo aveva lasciato, e nel milanese un uomo uccide la moglie e si suicida. Immigrazione, allerta in 80 province per far posto agli immigrati, e scontro tra Renzi e Salvini sul tema. Nessuna invasione, dice il Presidente del Consiglio, e a Ventimiglia il parroco apre la porta ai rifugiati. Sono 300 tra l'altro i dispersi del naufragio del 26 maggio. L'ISIS in difficoltà in Iraq, l'esercito iracheno entra a Fallujah dopo 2 anni e anche Mosul sotto assedio. Nomine nella giustizia, Francesco Greco è il nuovo procuratore di Milano, fu uno dei PM di Mani Pulite. Pantelleria, l'isola devastata dagli incendi, chiede lo stato di emergenza, e a Milano gli allagamenti diventano un caso politico. Lo sciopero delle turbini, adesione al 90%, disagi in tutta Italia, raccolta dei rifiuti al minimo ed è SOS epidemie. Lo spettacolo nel cielo, nasi puntati in su stasera per Marte, così vicino alla Terra come non lo era da 11 anni. Partiamo quindi da questo nuovo ennesimo femminicidio avvenuto a Roma, alla Magliana. Vincenzo Paduano, 27 anni, ha confessato l'omicidio della studentessa 22enne Sara Di Pietrantonio, trovata ieri all'alba, carbonizzata alla periferia di Roma. La storia tra Vincenzo e Sara era cominciata 2 anni fa ed era stata segnata da rotture e riprese da qualche settimana, però Sara aveva un'altra relazione, aveva deciso di lasciarlo, questo ha fatto decidere a Paduano di ucciderla, l'ha inseguita in macchina, l'ha speronata, ha speronato l'auto di lei, è entrato nell'auto, ha cosparso la macchina di alcol, ha cosparso anche lei di alcol. Lei ha tentato di fuggire, ma lui l'ha inseguita e le ha dato fuoco, facendola morire tra le fiamme. Due automobilisti sarebbero tra l'altro accusati di omissione di soccorso per non essersi fermati alla richiesta disperata di aiuto di lei. E poi torneremo, vi dicevo, su questo nuovo episodio di mattanza femminile, senza tanti giri di parole. Ma come se non bastasse, potrebbe trattarsi di un possibile caso di omicidio-suicidio, quello di due coniugi trovati morti nel pomeriggio a Cassina de' Pecchi, vicino Milano. I due, 40 e 45 anni, sono morti in seguito a numerose coltellate. Entrambi erano originari della provincia di Taranto, avevano dei bambini che non erano presenti. I loro corpi sono stati scoperti in una pozza di sangue da un familiare verso le 17. I carabinieri di Cassano d'Adda, vicino a Milano, e del nucleo investigativo di Monza, con i colleghi della squadra rilievi di Milano, stanno analizzando un coltello da cucina, presumibilmente l'arma del delitto, e l'indagine appunto propendono per un omicidio-suicidio. Immigrazione adesso. Le migliaia di immigrati arrivati da poco stanno creando del disagio, dei problemi in tutta Italia, anche se il governo minimizza. Per il governo non è un'emergenza, ma sono comunque numeri importanti quelli registrati in Italia nell'ultima settimana sul fronte degli arrivi dal Nord Africa. Oltre 13.000 migranti sono stati soccorsi nel canale di Sicilia, almeno 3 i naufragi, oltre 700 i dispersi. Per alleggerire la situazione nei centri di accoglienza, il Viminale ha deciso di coinvolgere 80 province, ciascuna delle quali dovrà ospitare almeno 70 profughi, che in questo modo verranno anche redistribuiti su tutto il territorio, un piano dal quale la Lombardia però ha già chiesto di essere esclusa. Da gennaio sono oltre 46.000 i migranti sbarcati in Italia, un flusso in linea con quello dello scorso anno. Salviamo quante più vite possibili, sapendo che non c'è nessuna invasione, sottolinea il premier Renzi, che definisce meschino l'atteggiamento di chi usa parole come sistema al collasso, emergenza o invasione. Parole che alimentano immediatamente una nuova polemica con il leghista Salvini. Sono meschino ma non schiavista, complice e offesso, è la replica del leader del Carroccio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E si apprende che il 26 maggio scorso, al largo della costa della Libia, vi è stato un unico naufragio con un bilancio di circa 300 dispersi. Questo è quanto ha stabilito la Guardia Costiera, che ha ascoltato circa 150 superstiti giunti a bordo delle navi che operano nel canale di Sicilia, alcuni a Taranto, altri a Pozzallo, altri ancora a Porto Empedocle, ed è stata così smentita l'ipotesi di un secondo naufragio in quello stesso giorno. Però comunque i dispersi sono 300 al momento. Passiamo all'estero. L'esercito iracheno ha lanciato un'offensiva per riconquistare Fallujah, roccaforte dello Stato Islamico, il sedicente Stato Islamico vicino alla capitale Baghdad. Le forze irachene sono entrate a Fallujah sotto copertura aerea della coalizione internazionale e dell'aviazione militare irachena, appoggiate da artiglieria e carri armati. Così ha annunciato al-Saadi, il comandante che guida l'operazione di riconquista della città, la prima caduta nelle mani dell'ISIS a gennaio 2014. Gran parte del centro di Fallujah è circondato, ma il Daesh oppone resistenza, tenta di ostacolare l'avanzata dei governativi con mine, autobombe e razzi. Gli jihadisti starebbero usando come scudi i civili, circa 50.000, che non sono riusciti a scappare, riporta la stampa internazionale. Sempre secondo i media, nei sobborghi ci sarebbero 20.000 uomini schierati in vista dell'attacco annunciato una settimana fa dal primo ministro iracheno al-Abadi. L'offensiva è in corso con successo, aveva detto nelle ore successive. Sono impegnati esercito, polizia, antiterrorismo, tribù locali e milizie in maggioranza sciite. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora nomine nella giustizia. È Francesco Greco il nuovo procuratore di Milano. Dopo quasi 7 mesi, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura lo ha nominato a larga maggioranza, preferendolo ad Alberto Nobili, altro procuratore aggiunto di Milano. Alla fine si è invece ritirato Gianni Melillo, capo gabinetto del Ministero della Giustizia. Greco, 64 anni, già membro del pool di Mani Pulite, è noto soprattutto per aver coordinato importanti inchieste sui reati economico-finanziari, da Parmalat alle scalate bancarie. Così parlava tempo fa a Storiacce di Radio 24 della corruzione. Ora dice è peggiore del 92, così disse Greco intervistato da Raffaella Calandra. La criminalità economica negli ultimi 20 anni è notevolmente aumentata. Abbiamo un quadro di pericolosità della criminalità economica molto più ampio che nel 92, dove essenzialmente c'era un problema di corruzione e finanziamento illecito della politica, invece molto più articolato e completo. Oggi si ruba essenzialmente per arricchirsi. Lei ha parlato anche di gangsterismo finanziario. Un paese in cui si calcola che tra corruzione e evasione fiscale vengono sottratti alle casse dello Stato circa 200 miliardi l'anno, è un paese che se non pone rimedio a questo problema non ha futuro. D'altra parte mi sembra che ormai sia consapevolezza un po' di tutti quanti che questo è il problema centrale dell'Italia. Siamo alla politica, tra l'altro poi cercheremo anche di seguire un po' questo confronto all'americana che c'è su Sky TG24 tra i principali candidati sindaci a Milano, tra poco. E siamo, o comunque restiamo alla politica con la campagna elettorale per le amministrative del 5 giugno. Le amministrative collidono con l'immondizia, almeno a Roma lo sciopero nazionale dei netturbini diventa emergenza, l'AMA annuncia astensione fino alle 4.30 di mattina e turno ridotto nel weekend, tanto da suggerire ai romani di tenersi in casa i rifiuti. In tutto questo la candidata 5 Stelle Virginia Raggi presenta il programma, 9 assessori più un a tempo, quello per le partecipate statali, come appunto AMA e ATAC. Ma il PD attacca, Raggi è telecomandata dai vertici 5 Stelle. I Dem rimandano anche dei sì di dopo le amministrative, anche se Roberto Speranza della minoranza interna parla di seri nodi politici, mentre il vice segretario Lorenzo Guerini assicura che tutto il partito sta lavorando per sostenere i candidati sindaci. Quello di Roma, Roberto Giachetti, conferma poi l'evento a teatro con il premier Matteo Renzi per mercoledì, mentre invece Beppe Grillo non sarà sul palco per la chiusura della campagna elettorale di Raggi, ma manderà probabilmente un videomessaggio. A Milano scende in campo Silvio Berlusconi sulla divisione con la Lega. Non credo, dice il leader di Forza Italia, che il carroccio possa superare i nostri consensi, ma anche se fosse non ci sarebbe da preoccuparsi, perché Salvini è un nostro alleato indissolubile. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda Milano, disagi oggi rientrati per il violento nubifragio che ha colpito la città durante questa mattina, provocando molti allagamenti. Grossi disagi invece nell'isola siciliana di Pantelleria, che è in fiamme. Il sindaco Salvatore Gabriele ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per l'incendio che da 3 giorni devasta l'isola. È un attacco mirato, dice il sindaco, programmato di criminali collegati a certe sacche di resistenza, tutti schierati contro l'istituzione di un parco nazionale. La cronaca, la mamma del bambino di 1 mese ghanese morto dopo la circoncisione in casa è stata denunciata dalla polizia per omicidio colposo mentre si cerca un medico abusivo ghanese che ha effettuato l'intervento di circoncisione. La donna, che ha 35 anni da 5 vive in Italia con lo status di rifugiata, ha rivelato agli investigatori di aver somministrato al figlio una supposta di paracetamolo da 250 mg il cui uso è consigliato solo dopo i 12 kg di peso, ed è stato rintracciato anche il padre ghanese di 33 anni, anche lui con lo status di rifugiato. E siamo alla musica, pochi giorni dal concerto gratuito per Milano in Piazza Duomo il prossimo 12 giugno, diretto da Riccardo Sciallì. La Filarmonica della Scala ha presentato oggi la nuova stagione, si aprirà il 7 novembre con un duplice ritorno, quello di Daniel Barenboim e della pianista Marta Argerich, che dalla Scala manca dal 1994. È una stagione ricca, con dei significati diversi, e credo che soddisferà il gusto di un pubblico variegato a esigenze come quello della Filarmonica della Scala. La stagione di cui parla il presidente Federico Ghizzoni è la 35esima per la Filarmonica della Scala, che ha presentato oggi il nuovo cartellone. Si aprirà il 7 novembre con un duplice ritorno, quello di Daniel Barenboim e della star del pianoforte Marta Argerich, che dalla Scala manca da 1994. Maurizio Pollini poi sarà impegnato con Riccardo Sciailli, Mario Brunello, con Myung Woon Chung, tornerà Joshua Bell. Attesi anche Valerie Gergiev e l'ungherese Peter Etvosh con la sua nuova opera sinfonica Alle vittime senza nome 2016, che sarà diretta dallo stesso autore l'8 maggio. Novità assolute della stagione, gli Spira Mirabilis, musicisti professionisti che lavorano senza un direttore. Alla Scala proporranno l'Eroica il 17 settembre in un modo inedito, la violista Francesca Piccioni. Il pubblico può farci delle domande, può farle a ciascuno di noi, a ciascuno dei 30, 40, 50 musicisti che hanno appena suonato. I musicisti parlano soprattutto perché hanno la consapevolezza di quello che fanno, essendo responsabilizzati individualmente nel loro lavoro. Confermate le prove aperte, il concerto per Milano gratuito, le borse di studio e Sound Music, l'iniziativa per le scuole elementari. Parla di servizio pubblico con fondi privati il direttore artistico della Filarmonica della Scala, Ernesto Schiavi. Questo è il suo auspicio. Speriamo che in futuro, chissà se il governo rifletterà a fondo sul fatto che le defiscalizzazioni per chi dà danari per la cultura possano valere anche per noi, questo sarebbe un aiuto ulteriore. Roberto Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere, un accenno anche allo spazio, perché questa sera Marte da spettacolo si troverà alla distanza minima dalla Terra, come non accadeva da 11 anni a questa parte, e dopo Sole e Luna sarà uno dei due corpi celesti più luminosi del cielo, cielo permettendo naturalmente, perché dove è brutto tempo, un po' di nuvole, vero? Sarà un'occasione comunque per chi può, per ammirare il disco del pianeta rosso, osservare alcuni particolari sulla superficie, questi visibili però con un piccolo telescopio. Vogliamo sentire per esempio Beppe Sala in questo confronto all'americana su Sky TG24? E quindi il governo finanzia gli installatori e gli installatori installano la caldaia e quindi il condominio non paga. Se sì, che credo sia una cosa totalmente auspicabile, poi giro invece quei 100 milioni sulle auto elettriche. Credo molto nelle auto elettriche, l'industria dell'auto è stata per molti anni a riflettere se l'idrogeno, di ambiente, se l'elettrico, di però sostenibilità, mi pare che ci sia una naturale tendenza di risparmio energetico in molti paesi, principalmente europei, e quindi proverai questa formula. Chiaro, questo Beppe Sala, poi sentiremo anche gli altri, c'è Corrado del Movimento 5 Stelle, c'è Parisi invece sostenuto dal centrodestra, con Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, pensionati, eccetera. Poi tra poco, adesso intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, e parleremo adesso dopo la viabilità appunto di questo nuovo femminicidio. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco Roberto Giordano subito con voi, continua il faccia a faccia all'americana su Sky TG24, di cui parleremo tra poco, tra i principali candidati a Milano che sono Gianluca Corrado, per esempio il Movimento 5 Stelle, prima abbiamo sentito Panza, sentiamo Corrado. Almeno di un 50% per gli anni successivi e lo stesso per quanto riguarda le insegne. Non ha più tempo per dirci però come lo copre evidentemente questo taglio, vado da Sala. Sta parlando di tagli, poi dopo ci torniamo in modo più tranquillo, adesso invece parleremo prima di questo nuovo femminicidio e un altro che oggi si è aggiunto, tanto per tenere alta la media, dicevamo. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ho chiesto, fra le altre cose, se fosse che in Italia ogni 2-3 giorni fosse una donna a uccidere un uomo perché è stata lasciata, che cosa succederebbe? Ci sarebbe la stessa indifferenza, continuerebbe da anni questa mattanza. Scrive Riccardo: Roberta, bisogna già nelle scuole far capire che essere lasciati non è un dramma, ma può aprire le porte a una nuova vita sentimentale. Poi un altro WhatsApp fra i vari, apro questo, dice Tahir da Salerno: per fortuna l'Italia è un paese di grande cultura e storia magnifica, con rispetto reciproco tra italiani e gli stranieri, garantisco che noi musulmani che viviamo e lavoriamo in Italia saremo il primo scudo contro ogni male. Così dice questo ascoltatore. 349-238-6666 per i messaggi o per i WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, le notizie principali, e poi partiamo con questo primo tema. Renzi, Salvini, lite sui migranti, nessuna invasione, dice il Presidente del Consiglio. Intanto a Ventimiglia il parroco apre le porte ai rifugiati. Confessa l'ex fidanzato di Sara, la ragazza che è stata bruciata viva a Roma: l'ho bruciata viva io, mi aveva lasciato. Gli investigatori dicono che tra l'altro lei chiedeva aiuto per strada, ma nessuno si è fermato. Il Consiglio della Superiore della Magistratura sceglie Francesco Greco come nuovo procuratore di Milano, ex magistrato di Mani Pulite, passa a larga maggioranza. E poi la campagna per i comuni si infiamma naturalmente, siamo a pochissimi giorni dalle elezioni, il 5 giugno Renzi dice: non imploderemo, gli altri gufano l'Italia, ho rottamato per uscire dalla palude. E poi il Lambro a Milano, il fiume che straborda dopo il nubifragio, Milano in tilt, continua l'allerta meteo al nord, attesi nuovi temporali. Battaglia a Fallujah in Iraq, 50.000 civili usati come scudi dall'ISIS. E poi disagi in tutta Italia per lo sciopero dei rifiuti, adesioni al 90%. E ci ritroviamo a parlare appunto dell'ennesimo femminicidio, l'ennesima donna uccisa barbaramente da un uomo che come sempre non tollerava che lei potesse non essere più una sua proprietà. Ormai sono diventati sembra cinico dirlo, ma è oggettivamente così, sono banali questi omicidi, perché anche per gli investigatori non è che servano grandi investigazioni. Quando succede, ormai basta mettersi sulle tracce, sempre che lo si trovi, dell'ex o dell'attuale compagno della donna uccisa. Questa volta non si è trattato di uno strangolamento, di uno sgozzamento, di martellate o di fucilate o di coltellate, sapete che variano molto, no. Questa volta l'assassino ha optato per il fuoco, facendola diventare una torcia umana. Questa ragazza di 22 anni, Sara Di Pietrantonio, una studentessa universitaria, è stata trovata morta, carbonizzata alla Magliana, a Roma, a pochi metri dalla sua auto distrutta dalle fiamme. Dopo una notte di interrogatori, Vincenzo Paduano, 27 anni, che era stato lasciato da lei da pochi giorni, dopo due anni di una relazione che andava avanti un po' tra alti e bassi, lui ha ammesso di aver ucciso la ragazza, ma dopo ore e ore di interrogatori. L'ho uccisa io perché non sopportavo che fosse finita, ha detto. E come è avvenuto il tutto? Poche ore prima dell'omicidio, Paduano era stato a casa della ragazza, di Sara, aveva discusso con lei alla presenza anche della madre, poi se n'era andato. Poi nella notte che cosa ha fatto? Ha lasciato il suo posto di lavoro da guardia giurata, ha seguito di nascosto la ragazza perché conosceva il percorso che faceva per andare a casa, l'ha speronata con l'auto, l'ha costretta a fermarsi, le ha gettato addosso alcol e ha dato fuoco prima alla macchina, lei ha cercato di scappare, lui l'ha inseguita però e forse pare, secondo l'investigatore, abbia tentato anche di strangolarla, poi le ha dato fuoco e, lasciandola bruciare viva in mezzo alla strada, Paduano si è allontanato nella sua vettura, tornando al lavoro di custode notturno in un ufficio poco lontano. Per il magistrato, lui ha programmato e realizzato l'aggressione ed è un omicidio premeditato. Poi, come se non bastasse, quando lei ha cercato di fuggire, ha chiesto disperatamente aiuto, prima un'auto, poi un'altra, ma nessuno si è fermato. Questi due automobilisti, ripresi dalle videocamere, sarebbero accusati di omissione di soccorso. Ne parliamo con Anna Boldri. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Che è criminologa, psicologa, docente di psicologia sociale alla Seconda Università degli Studi di Milano. Professoressa, insomma, Di Napoli, mi scusi. Non c'è fine a questa mattanza, non c'è fine, non... è incredibile. Adesso leggevo appunto anche di quest'altro omicidio-suicidio nel milanese dell'uomo che avrebbe ucciso la moglie, con la cui una lite, la rabbia per un momento personale lavorativo difficile, lui in 45 anni ammazza lei di 40 anni a coltellate, poi si suicida. Sì, è un trend continuo. Io purtroppo più di 20 anni che mi occupo cerchiamo di prevenire questi reati e da una parte per fortuna ci continuiamo a indignare, nel senso, per la morte di Sara, sarà perché è successo a Roma dove abito, sarà perché è una ragazza giovanissima, sarà perché non possiamo darle nessuna colpa, tra virgolette, come anche a volte i giornalisti, no, fate giustamente, trovare una piega per poter capire se qualcosa poteva essere fatto per evitare, per prevenire. Questa è la domanda anche, no, soprattutto chi poi ci tiene ovviamente a tutelare le tante donne e tante ragazze. Il problema è questo, e non è una solo mia opinione, sono proprio anche dati oggettivi dall'analisi di moltissimi casi di omicidio in Italia, in altri paesi d'Europa e nel mondo, che al netto di tutte le differenze individuali, quindi una volta uno aveva bevuto, un'altra volta lei era più giovane, un'altra volta c'avevano figli, sposati, non sposati, cioè se noi, no, eliminiamo tutte queste variabili, alla fine c'è un nodo che li accomuna tutti, che e lo dice una psicologa, per cui non voglio neanche trovare tante spiegazioni di tipo patologico, perché è molto rara la malattia mentale come spiegazione. Questa è una persona che lavora sono molto lucidi, normalmente. Sono tutti molto lucidi. Sono lucidi, peraltro appunto prima o poi confessano, e l'onta del disonore maschile che viene violata per un affronto di chi, donna, ragazza, vuole decidere autonomamente, viene pagato proprio come un temporale delitto d'onore. Cioè, da una parte ci indigniamo, ci stupiamo, dall'altra basta andare a rimbagare la storia, ci dobbiamo indignare e stupire, perché a fronte di tante pari opportunità, a fronte di tanta cultura eccetera eccetera, come se noi donne, lo voglio generalizzare appositamente anche in maniera un po' provocatoria ma neanche fino in fondo, per alcuni uomini questa autonomia di pensiero, di vita, di scelte, non possa essere anche proprio gestita, come se nella cassetta, tra virgolette, degli attrezzi degli uomini ci fosse la violenza come mezzo efficace, per certi aspetti, risolutorio di chi non sta più sotto il tuo controllo, e l'ammazzo. È una forma di potere estrema, perché decidere per la vita dell'altra persona. Io anche nella mia pratica terapeutica spesso mi capita di avere a che fare con maltrattanti nel loro tentativo di percorso, in qualche modo di prendere consapevolezza, hanno questa rabbia che va al di là della rabbia del singolo gesto, del singolo affronto, ma una rabbia proprio nei confronti, mi da dire, del genere di quella ragazza, di quella donna. Infatti spesso queste persone sono recidive anche nei confronti di altre ragazze, che già, finché era tua, innamoratissimi, magari con conflitti. Ora purtroppo la povera Sara non lo possiamo più chiedere, le tante donne uccise, però molto spesso questo yo-yo, no, lasciarsi, rimettersi, che noi chiediamo spesso alla donna perché non l'ha denunciato o perché ha aspettato tanto, perché da fuori è facile dirlo, no, a morte avvenuta, perché non l'ha fatto. Ma professoressa Boldri, pare che lei, la ragazza, non avesse voluto denunciarlo per anche atteggiamenti aggressivi che aveva, perché facendo la guardia giurata questo avrebbe compromesso il suo lavoro. Però è anche vero, professoressa Boldri, che tante donne denunciano e devono, bravissima, farlo assolutamente, però esatto, muoiono lo stesso poi. Perché? Esatto. Ma infatti oggi diciamo questo, no? Vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo e diciamo, vabbè, anche fatti di stalking. A parte, sfido chiunque. Sara era la ragazza di moltissime mie studentesse, lavora all'università, insegna all'università, e quella è la fascia di età, infatti anche Sara andava all'università. E io mi domando quante di quelle ragazze, no, delle figlie o delle sorelle o delle nipoti di chi ci sta ascoltando in questo momento potrebbero essere le Sara. Scongiuriamo tutto quanto, ovviamente, ma questo per dire che cosa? Che poi alla fine, cioè, il motivo della denuncia è sicuro. Io sono sempre a dire denunciamo perché dobbiamo far sapere che c'è un problema grave, e chiudendolo, interrompendolo, uscendone fuori con l'aiuto di altri, che non significa necessariamente l'amica, l'amica ti può dare un consiglio, ma ci vuole un coordinamento delle istituzioni e anche soprattutto dei centri antiviolenza. Sono solo le azioni sinergiche nella stessa direzione, perché questa donna, quelle che vengono uccise, che noi andiamo a vedere, che avevano denunciato 5 volte e poi magari no, anzi, è proprio stata la denuncia che ha scatenato ulteriormente la violenza. Esatto. Sì. Allora, noi poi, se andiamo a vedere dov'è la responsabilità, innanzitutto è solo di chi agisce, ovviamente, questi reati, queste violenze efferate. Però spesso c'è una mancata, non solo coordinamento, perché ormai in Italia insomma anche le leggi ci sono, ma non è tanto quello, è la volontà, io noto, anche delle singole persone, della singola psicologa, della singola assistente sociale, del singolo poliziotto, del singolo magistrato, giudice, cioè tutti questi passaggi. Basta che qualcuno non veda con le stesse lenti il fenomeno della violenza e del pericolo e del rischio di recidiva, ok? Allora si interrompe una catena, perché se un magistrato chiede l'applicazione della misura cautelare, che significa per esempio il divieto di avvicinamento, ma il giudice, no, non la accetta perché ritiene, no, una persona incensurata, lo indago ma non do la misura, sto parlando di casi reali. Ecco, questo non significa che è necessariamente un momento di alto rischio, ma sicuramente mettere nella condizione di chi ha intenzione di fare del male all'altra persona, e questo poi il motivo, ovviamente ci deve essere alla base qualcuno che ha intenzione di fare del male, di portare avanti il suo piano anche omicidiario. Dobbiamo rendere la vita a questi maltrattanti e stalker difficile. In che modo? Da una parte creando anche una rete anche informale. Abbiamo visto il caso di questa ragazza, sembra che delle persone, no, non lo so poi io che cosa è successo, saranno gli inquirenti, nessuno vuole adesso andare, no, non si sarebbero fermate. Però non sarebbe fermate, ma questo lo vediamo tutti i giorni. Quante volte ci capita di vedere, di assistere anche ad aggressioni molto importanti, con parolacce e quant'altro, e noi che facciamo? Ci alziamo la musica dell'auricolare, che se qualcuno avesse paura e non si non vuole intervenire, abbiamo tutti il telefonino, 113, no? Ci si allontana e si chiama adesso 112 numero unico. Cioè, voglio dire, anche se io non mi voglio esporre, perché ora è facile fare tanti bei discorsi, no? Uno sta al telefono e dice intervieni, poi magari chi lo fa per mestiere, ovviamente, però lì una telefonata, una segnalazione può in alcuni casi veramente creare la differenza fra la vita e la morte. Allora, se non c'è una risposta sistematica e strutturale di prevenzione, che ovviamente va nelle scuole, come giustamente, no, diceva alcuni dei nostri ascoltatori, però quando invece la violenza è lì che si sta per esplodere, è il momento della separazione, quando tu lasci uno che già hai notato che era aggressivo, prepotente, violento. Questo lo diciamo spesso alle ragazze, no? Cioè di non confondere la gelosia, no, con quello che invece, con, esatto, cioè pensare che la gelosia è intesa come controllo e possessione. sia una no, indice, un indicatore di tenere a qualcuno di amore, di attaccamento. Professoressa Boldri, senta, siccome io li chiamo negazionisti e questo sono molti uomini, anche qualche donna raramente, ma molti uomini continuano a dire il femminicidio non esiste, lo dicono sia perché non riconoscono che esiste un reato specifico e dicono è un omicidio come un altro, in più molti lo considerano una discriminazione nei confronti degli uomini, come un privilegio dato alle donne che si può un tipo di delitto chiamare femminicidio. Secondo lei che cos'è il femminicidio ed esiste ormai anche a livello di ONU come reato, no? La battuta ovviamente viene spontanea, faremmo volentieri a meno di questo no, privilegio di essere di più essere uccise, purtroppo partiamo da un dato oggettivo. Il termine è vero che nel nostro sistema penale, nel codice penale non c'è come reato, no? È l'omicidio che addirittura non va dimenticato che è un aggravante quando questo viene commesso nei confronti di una persona con la quale c'è un legame di parentela, quindi in questo caso no, potrebbe essere la moglie o un legame anche affettivo. Quindi addirittura il nostro codice riconosce che quando viene violato, non parla di uomo e donna, parla di relazione, quando viene violato quella che la fiducia che tu hai nei confronti di una persona, questo diventa un aggravante. Adesso a me non interessa entrare, anche che non sono una giurista, nel dibattito legale, no? Se avere o meno nella nostra legislazione un reato. Ci sono paesi, per esempio, del Sud America che lo hanno proprio previsto, certo. Perché anche lì fenomeno. Ciudad Juárez, per esempio, in Messico. Il problema del femminicidio inteso proprio come definizione che Diana Rasse l'ha data nel 1990, cioè non è una cosa che difendiamo io, lei o qualche nora di ascoltatore, dire c'è o non c'è, non dobbiamo superare questo dibattito. Il problema è proprio di aver dato una definizione a un fenomeno che riguarda un genere inteso, forse la gente deve andarsi a leggere il dizionario per capire cosa si intende, inteso non come il sesso biologico, ma come il genere con tutto quello che è il significato sociale e culturale ad esso connesso e i ruoli che sono ad esso collegati. E quindi qual è il ruolo antisignano del genere femminile, ok? Allora, quando si parla di femminicidio inteso come reato di genere nei confronti di un genere, significa andare al di là della spiegazione legata a fattori come l'alcol, come la droga, come precedenti penali, ma significa dire aver ammazzato quella donna in quanto donna. Che cosa significa questo? Significa che dietro a questi omicidi, io sfido qualunque radioascoltatore negazionista che non veda, no, il dato oggettivo, cioè di quello che sono i numeri, perché io posso anche far finta di essere d'accordo su quelli che sono i maltrattamenti, gli stalking, e dall'osservatorio centro antiviolenza vediamo che comunque purtroppo anche la violenza sessuale riguardano, come per quanto riguarda le vittime, una percentuale sicuramente maggiore di donne. Beh, questo non significa che c'è qualche donna che perseguita o qualche donna maltrattante, ma stiamo dicendo qual è un fenomeno mondiale, globale. Allora, il femminicidio, riconoscere e usare senza vergogna, senza paura di essere, no, qualcuno dice ah perché sennò sembra una femminista, non ha detto queste cose, a parte non c'è niente da cui vergognarsi di essere femminista, perché significa, esatto, affermare un valore, un diritto dell'identità di genere, perché io non parlo di uguaglianza di uomini e donne, io parlo di uguaglianza di diritti e di differenza di genere, che significa valorizzare quelle che sono le differenze e che possono assolutamente convivere e rispettarsi l'una con l'altra. Quindi femminicidio come dare una grossa lampada, non ne parleremo più, lo promettiamo tutti quanti e tutte quante, quando le donne non verranno più uccise. Quando questo accadrà non useremo più il termine. Credo che potremmo non esserci più, e spero non per questioni violente, cara professoressa Anna Costanza Boldri, che purtroppo potrebbe succedere tra molti molti anni. Grazie intanto, esatto. La ringrazio moltissimo anche per il suo lavoro. Grazie a tutti quanti voi anche di occuparvi di questi temi in maniera approfondita. Grazie a lei e buona serata. Adesso dobbiamo lasciarci velocemente, abbiamo questa pausa e poi vediamo allora tra poco questo confronto all'americana tra i tre principali candidati a Milano. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi. Parlano adesso i candidati. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali e poi vediamo questo confronto all'americana sui candidati a Milano. Il femminicidio della Magliana, ne abbiamo appena parlato, indagato per omicidio volontario ma anche per stalking, l'ex fidanzato di Sara Pietrantonio, la ragazza 22enne bruciata viva perché lo aveva lasciato. E nel milanese oggi un uomo uccide la moglie e si suicida. Immigrazione, allerta in 80 province per far posto agli immigrati, scontro tra Renzi e Salvini sul tema, nessuna invasione, dice il presidente del Consiglio. Nomine nella giustizia, Francesco Greco è il nuovo procuratore di Milano, fu uno dei PM di Mani Pulite. Pantelleria, l'isola devastata dagli incendi chiede lo stato di emergenza e a Milano gli allagamenti diventano un caso politico. Lo sciopero di Netturbini, adesione al 90%, disagi in tutta Italia, raccolta al minimo dei rifiuti ed SOS epidemie. Allora, adesso vediamo se riusciamo a sentire un po' di interventi su Sky TG24 dei principali candidati a Milano, che sono Beppe Sala, sostenuto da PD Italia dei Valori, Sinistra per Milano, Stefano Parisi, che ha appena finito gli ultimi 5 secondi di parlare, sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia e Pensionati, e poi Gianluca Corrado, che è invece sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Eccolo qua. Di una moschea più grande, che però noi riteniamo l'opzione meno perseguibile, o quella di regolarizzare la situazione attuale. Oggi, come ha detto lei giustamente, esistono circa 30 luoghi di culto che soddisfano il diritto costituzionale di queste persone. Beh, rivediamoli, chiudiamo quelli illeciti, creiamone 15, 16 perfettamente legali, piccoli, diffusi sul territorio, che ripropongano il modello attuale, diminuendone il numero e assicurando maggior controllo. Grazie. Questo è Gianluca Corrado, evidentemente, rispetto alla... la possibilità di costruire delle moschee a Milano. Solo 30 secondi, mi dispiace. Invece su questo... Mi scuso personalmente, però le chiedo, Parisi, la prima idea qual è effettivamente? Prima abbiamo sentito Sala all'inizio della trasmissione. 30 secondi. Dunque, deve essere un'area dove si concentrano lì tutti i saperi delle università, scientifici, grande centri di ricerca, campus universitari e qualità della vita, sport, verde, luoghi di intrattenimento, insomma deve essere una realtà dove si vuole andare a vivere perché è una realtà ricca e dall'altra parte genera ricchezza trasferendo l'esito della ricerca in attività economiche di alta. Quindi cosa si intende fare nell'ex area Expo, evidentemente? E intanto saluto Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella, tu, visto che hai seguito, no, tutti i candidati a Milano, abbiamo parlato dei cosiddetti minori ma anche dei maggiori, adesso di nuovo c'è Gianluca Corrado, l'abbiamo sentito, poi vediamo se riusciamo a dare altro spazio anche. C'è questo confronto all'americana, tu li hai, insomma, li hai seguiti, Raffaella, no? Sì, il confronto devo dire sta ripercorrendo un po' quelli che sono stati gli stessi temi delle interviste che abbiamo fatto per Radio 24 e che i nostri ascoltatori possono ritrovare sul sito di Radio 24, ma un confronto all'americana che è cominciato con quello che però è diventato il tema politico e di scontro di questi ultimissimi giorni di campagna elettorale, ossia il maltempo, il nubifragio che si è abbattuto oggi su Milano, perché appunto è cominciato con un affondo soprattutto di Stefano Parisi, che ha in qualche modo attribuito all'amministrazione attuale, quindi un'amministrazione di centrosinistra, quella di Pisapia, la responsabilità anche dei gravi disagi che ci sono stati in città per questo nubifragio, un'accusa a cui il candidato del centrosinistra Beppe Sala ha risposto dicendo che è un'accusa strumentale, che comunque si impegnavano a fare di più, ma anche nelle polemiche della giornata questo ha rievocato da una parte e dall'altra un botta e risposta di accuse su quanto sia stato fatto o non fatto dalle precedenti amministrazioni sia di centrodestra e poi di centrosinistra, soprattutto sulla gestione delle esondazioni dei famosi fiumi Seveso e Lambro. E poi, ecco, quindi questo è stato il tema politico della giornata, più nuovo, soprattutto, esatto, no? Della giornata, e che devo dire potrebbe diventare un tema non soltanto, diciamo, dello scontro odierno, ma anche da un peso ancor più forte, insomma, perché diciamo siamo a pochi giorni dalle elezioni e perché questo della città che si allaga è un tema che già anche l'anno scorso con Expo fu visto vissuto, insomma è un tema ricorrente a Milano. Poi devo dire che gli altri temi toccati sono temi di grande dibattito aperto a Milano, ma non solo, si è proseguito con la sicurezza, altro argomento che avevamo affrontato con tutti e nove i candidati sindaco, e anche su questo c'è stato un acceso botta e risposta tra Parisi e Sala, che anzi in questo caso si sono giocati anche il loro, diciamo, jolly della possibilità di replica su che cosa fare per sentirsi sicuri nelle città, sull'uso della tecnologia, sulla presenza di più militari in città, per poi proseguire con temi come l'immigrazione, quindi l'accoglienza, e come facevi ascoltare tu poco fa, il progetto della costruzione di una moschea a Milano, e poi ancora che cosa fare dell'area Expo, insomma quelli che sono stati i grandi temi di confronto di questa campagna elettorale che volge alla conclusione. Oggi c'era Berlusconi a Milano. Proviamo a sentire Sala un attimo. A condizione che non si rubi a Milano un metro quadro di verde. Quindi se si costruisce negli ex scali ferroviari, si costruisce al limite nelle ex caserme. In questi giorni sento parlare anche di un'ipotesi di trasferimento di San Vittore e non si capisce bene cosa. Io ho dei dubbi, o lo si mette a posto, posto che le condizioni lì non sono dignitose, o facciamo del verde. Conosco l'area, è un'area molto... Questo per quanto riguarda evidentemente piani di edificazione, no? Esatto, se ci si lamenta, Milano rischia di cementificarsi ulteriormente. Sì, perché anche questo si è discusso molto. Parisi ha elogiato il nuovo skyline di Milano, dicendo anche che appunto è necessario costruire, un tema su cui Sala ha avuto una posizione, diciamo, sì, ha apprezzato, diciamo, il nuovo skyline, però appunto, come abbiamo anche sentito, rivendica e sottolinea la necessità di avere più verde, quindi di tutelare il verde cittadino, quindi piste ciclabili, insomma una linea che in qualche modo è anche più vicina alle aree di sinistra che fanno parte della coalizione che sostengono poi Beppe Sala, perché chiaramente anche questo è un grande tema, come sull'immigrazione, su un altro aspetto, cioè i partiti che sostengono i vari candidati e quelle che sono le loro istanze, così ad esempio Parisi che l'illegalità non si può buttare giù una porta, addirittura pagare un racket per occupare una casa che non è tua. Questo va fatto, perché è un principio di fondo. Se si inizia un dibattito su questo tipo non va bene. Poi giustamente va gestito socialmente il problema, perché alcuni sono centri sociali che vanno mandati via. Il problema della legalità, degli appartamenti occupati, dei vari edifici occupati, insomma, che il problema delle case anche a Milano, non solo a Roma, è particolarmente sentito. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, abbiamo sentito un po' tutti e tre i candidati. Raffaella che ci ha fatto butto un'analisi di questo confronto all'americana, direi che potremo andare in viabilità tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dottor Sala e dottor Parisi, l'ipotesi di trattare con le Ferrovie dello Stato per modificare il progetto sullo scalo. Chiaro, grazie. Gianluca Corrado, questo è il Movimento 5 Stelle. Adesso vi ricordo velocemente i titoli più importanti sull'immigrazione. Lite Renzi-Salvini. Renzi dice non c'è nessuna invasione, però c'è già sul 2015 un più 4% di immigrati arrivati in Italia. Confessa l'ex fidanzato di Sara, l'ho bruciata viva perché mi ha lasciato. Gli investigatori dicono anche che lei chiedeva aiuto per strada, ma nessuno si è fermato. Il Consiglio Superiore della Magistratura sceglie Francesco Greco, nuovo procuratore di Milano, ex magistrato di Mani Pulite. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome? Isabella. Cognome? De Monte. Età? Quasi 45. Nata a? Udine. Eletta in? Collegio del Nord-Est. Con quanti voti? 74.300 circa. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Socialisti e Democratici. Segni particolari? Fantasiosa. Quante lingue parla? Parlo l'inglese, un po' di tedesco e il friulano. Competenze europee in 10 parole? Sono appassionata di turismo e di trasporti e già sindaco, quindi diciamo, mi interessa anche il settore finanziario. Benvenuta nella You Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'Europa è la principale meta turistica mondiale, eppure il turismo non rientra negli obiettivi tematici della programmazione 2020, previsti dai regolamenti che disciplinano i fondi strutturali di investimento europei. Quali strategie e fondi per sostenere e promuovere il turismo in Unione Europea? È vero che sono importanti i fondi, però allo stesso tempo molte strategie possono essere adottate proprio come politiche, ad esempio la politica dei visti, ad esempio la formazione, ad esempio l'aspetto anche della conoscenza delle lingue. Quindi ci sono tante cose che si possono fare per promuovere il turismo. Quali sono i settori turistici che nei prossimi anni manterranno l'Europa competitiva a livello internazionale? Secondo me saranno tutti settori che saranno di nicchia, quindi abbandoneremo sempre di più il turismo di massa e dovremmo soddisfare il turista nelle sue curiosità, nelle sue particolari aspettative, nel saper dare emozioni. Se dovessimo fare un identikit del turista che visiterà l'Unione Europea nel 2050, come lo immaginiamo? Lo immagino del tutto autonomo, del resto la tecnologia sarà tale per cui andremo ancora di più in quella direzione, per cui molto fai da te, ma secondo me sarà un turista che cercherà sempre di più le zone remote, meno conosciute, quindi forse meno capitali, meno luoghi molto conosciuti e sempre di più delle zone così da scoprire, come lo immagino un po' un esploratore. Europa e trasporto sostenibile, utopia o realtà? È molto difficile ancora oggi andare verso il turismo sostenibile perché comunque, ad esempio, si sa, le persone vogliono essere autonome e libere, quindi utilizzare le automobili. Quindi molto si sta facendo proprio per renderlo efficace, appetibile, conoscere gli orari, ad esempio, molto più di adesso dei treni, l'intermodalità. Quindi ecco, stiamo lavorando molto in tal senso. Un sogno nel cassetto? Sarebbe quello di studiare criminologia, perché sono sempre stata una appassionata di diritto penale, ma con dei risvolti anche legati alla psicologia, quindi questo sarebbe il mio sogno, chi lo sa, magari un giorno. You Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso a questo punto concediamoci un pochino di leggerezza, che in realtà è anche intensità, è anche infinito, anzi, prima di tutto parliamo di Marte, perché stasera Marte dà un po' di spettacolo, non soltanto ce l'abbiamo qui sui palchi terreni ma anche nel cielo, perché si troverà il pianeta rosso a una distanza minima dalla Terra come non accadeva da diversi anni, almeno da 11 anni, dopo Sole e Luna. Se voi guardate verso il cielo, sarà uno dei corpi celesti più luminosi, ce lo può confermare chi meglio di lui? Del resto il professor Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Professore, proprio così, quindi stasera sera vedremo Marte così? Sì, bene. Siamo in una condizione astronomica particolare di vicinanza del pianeta rosso. Del resto non è un caso che sia così, perché ricordiamoci che abbiamo scelto in marzo di partire per il pianeta rosso con la missione ExoMars, proprio scegliendo il momento in cui la distanza tra i due pianeti era ottimale. Questo capita ogni paio d'anni, in questo caso particolare poi si presenta una configurazione dei pianeti molto ancora più rara, capita ogni 11 anni, ma di fatto insomma, è il momento in cui Marte e la Terra sono vicini. Professore, però, per dare l'idea a chi ci ascolta, non parliamo di una manciata di chilometri che uno può immaginare quando dice una breve distanza, di cosa parliamo? Sono i soliti, adesso dipende dal momento, ma tra i 150 e i 200 milioni di chilometri. Ecco, ricordiamoci che la Terra e il Sole distano 150 milioni di chilometri, Marte e la Terra fanno orbite non troppo dissimili, quindi stiamo parlando al minimo di distanze di quest'ordine di grandezza, quindi farla a piedi ci metteremo un po' di tempo. Basterà alzare il naso verso il cielo oppure è un po' più complicato, per esempio Milano, Roma, cattivo tempo? Beh, se ci sono le nuvole, addio Marte, addio Venere, addio tutto. Diciamo, ci vuole chiaramente un tempo pulito dalle nuvole e poi chiaramente a guardare il cielo poco dopo il tramonto, in modo tale che la luce riflessa dal sole permetta di vedere i pianeti con molta chiarezza e contemporaneamente non sia troppo brillante da impedire la visione. Però noi, visto che siamo anche fino a mezzanotte, fino alle 23 qualcosa, si potrà vedere abbastanza bene. Credo di sì, insomma, sono fenomeni che possono essere visti a lungo. Quindi alzate lo sguardo verso il cielo e poi per i più fortunati sarà così visibile il pianeta rosso, ha questi riflessi un po' rossi. Professor Roberto Battiston, grazie infinite. Grazie a voi, buon lavoro. E buona serata e buonanotte. Grazie, professore. Buona serata, arrivederci. Abbiamo ancora un minuto, qualche vostro altro messaggio. Intanto molti dicono il principale negazionista ce l'avete in casa. Poi Maurizio dice: in passato le donne erano considerate streghe, specialmente quelle con intelligenza e coraggio fuori dal comune, bruciate vive come Giovanna d'Arco. Forse il Medioevo sarebbe di nuovo tra noi. No, lo è, ci sono i talebani tra noi. E poi un altro messaggio, ringrazio Beatrice, la ringrazio a mia volta, dice, per il fatto di aver parlato di femminicidio. Poi un altro messaggio che è di Marco da Cividale, vediamo se lo ritrovo, che dice: Effetto Notte è uno dei migliori programmi. Allora mi raccomando, non perdetelo anche domani, come tutte le sere qui Effetto Notte, a partire dalle 21. Direi che a questo punto possiamo risentirci. Ringrazio anche Grazia da Novara, che racconta una storia piuttosto tormentata, mi dispiace. Grazie, adesso però vi devo lasciare, ci sentiamo brevemente alle 22.